Cielo bianco, pioggia, paesaggio decadente, traguardo irraggiungibile, sentirsi perdente, ogni giorno si ripete la stessa scena. Tutto quello che ho è la certezza della pena, la certezza della pena, la certezza della pena, la certezza della pena. E quindi fingere sorrisi, fingere sicurezza, fingere che uno scappo ti ha una carezza, mentre respiri l'aria e ti avvelena, finalmente avrai quello che chiedi, la certezza della pena, la certezza della pena, la certezza della pena, la certezza della pena. E quindi da tutte le giornate in cui non mi vorrei alzare, perché so già esattamente come dovrà andare, continuamente la gente ti accoltella la schiena, tutto quello che ho è sempre solo la certezza della pena, la certezza della pena, la certezza della pena, la certezza della pena. Quello che noi chiediamo, ma che continuiamo a chiedere da mesi e forse da anni, è che ci sia tre parole: certezza della pena, la certezza della pena. E quindi meccanismo che non si può inceppare, ognuno ha il suo ruolo da interpretare, questa la nostra missione terrena, ma tu continui ad avere bisogno della certezza della pena, la certezza della pena, la certezza della pena. E quindi ogni notte buio incubi, aspetti il giorno per liberarti dai fantasmi che hai attorno, e ti senti libero solo quando ti chiama la sirena, ma tu continui a chiedere la certezza della pena, la certezza della pena, la certezza della pena, la certezza della pena. E quindi mentre camminiamo tutti in fila verso la morte, improvvisamente qualcuno capisce e cambia la sorte, come un pesce fuor d'acqua che si dimena, tuffo di dover accettare sempre la stessa certezza della pena, la certezza della pena, la certezza della pena, la certezza della pena. Quello che continuiamo a chiedere da mesi e forse da anni è che ci sia tre parole: certezza della, la certezza pena, della pena. E quindi se poi a ribellarsi saranno in tanti, a rifiutare di vivere agonizzanti ed avere sempre solo gli avanti per cena, saranno in molti a non accettare più la loro certezza della pena, la certezza della pena, la certezza della pena, la certezza della pena. E quindi piaccia chi ti comanda solo per avere più potere, ti fa vivere in posti che sembrano galere, non ascoltare più la solita cantilena che ti vuole felice nella solita tua certezza della pena, la certezza della pena, la certezza della pena, la certezza della pena, la pena. E continuiamo a chiedere da mesi.